Bentornate e bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Oggi è un grandissimo giorno nella storia della trasmissione, la mia 53esima puntata, e per la seconda volta dall'inizio del ciclo di vita di codesto appuntamento ho con me un ospite, Un una seconda avventore. voce, un avventore. No, non passavi di qua per caso. Sì, dai. No, è venuto apposta, è proprio venuto apposta per fare questa cosa con me. In realtà la sua voce la sentirete più che altro nella terza e ultima parte della trasmissione, e perché ora parlo io, perché comunque la trasmissione è mia. Sì, no, io parlerò sul finire della tua trasmissione, ci teniamo a chiarirlo, di un po' di storia della scienza. Parleremo di brevetti, di come i Che brevetti. palle, mi subito ti smonti. No, non è vero, è interessantissimo. Sono anni che io voglio fare questa cosa e non sono in Infatti, grado. sì, volevo introdurmi dicendo proprio che era il problema che è un po' sulla bocca di tutti, cioè la storia dei brevetti negli Stati Uniti nell'Ottocento. Insomma, un tema caldo di questi tempi, però. Infatti, facciamo questo e poi subito dopo abbiamo un programma, una miniserie per Netflix. Sì. Cioè, è praticamente è tutto. Cioè, ci arricchiremo con questa cosa. Sì, sto per ora facendo i casting, devo un po' scegliere. Sarà la nostra risposta anticapitalista al film su Edison. No, vabbè, che ammettiamo subito di non aver visto. Sì, però Però siccome lo in guarderemo. realtà abbiamo in mente un ciclo di puntate, non solo una, ma un ciclo, probabilmente in una delle prossime noi lo vedremo per poterne parlare Sicuramente, sicuramente. male. E ora magari un po' di musica, perché abbiamo già. In realtà io di solito parlo così e poi metto la musica, però di solito racconto delle cose. A sto giro abbiamo avuto un'introduzione, Dai, perché non sono ancora abituato a avere qualcun altro accanto. sì, conosciamoci con un pezzo, vai. Sì, a caso, come sempre. E basta musica, visto che anche questa sera ho fatto una selezione particolarmente schifa, e non, cioè poi ci rifacciamo alla fine, però quella che ascolterete fino all'ultimo pezzo, che non ho scelto io, e sarà del pessima musica anni 80, e elettronica con tipo quello che viene chiamato il funky disco anni 80, quello che si ballava alla breakdance, quella roba lì. Però tanto ne metto poca di musica. E dunque, come sempre, visto che l'ultima volta non ho fatto così, ma mi piace dire che sarà per sempre così d'ora in poi, apriamo con un breve report delle attività dell'Hack Club IFDU, che si trova in quel del Next Emerson. La scorsa settimana abbiamo avuto un ospite che io avevo preannunciato alla puntata di lunedì, e poi ebbene questa cosa è avvenuta, e quindi forse ve la posso anche un pochino raccontare. È andata molto bene. C'era uno sviluppatore del progetto Tor, una persona addentro nei vari team di sviluppo. Ora non mi ricordo neanche più di quale team fa parte, e non perché non ho seguito, ma perché ha detto un sacco di cose e mi è passato di mente. Però insomma è stata una serata piuttosto interessante, e in particolare abbiamo avuto modo di provare a capire qualcosa di un nuovo oggetto che il Tor Project ha rilasciato di recente. Dal nome accattivante Snowflake, accattivante perché è quasi inverno e tra un po' nevica davvero. E questo coso aveva, diciamo, ha degli aspetti estremamente cool giovanile Ganzi, nel senso che è una roba che vorrebbe aiutare chi non può raggiungere la rete Tor perché sta in reti censurate a raggiungerla con un espediente, un barbatrucco, nel senso che maschera la connessione da sostanzialmente una videochat perché utilizza WebRTC, che è un protocollo sviluppato essenzialmente per fare robe multimediali sul web. È una cosa un po' interessante perché coinvolge direttamente gli utenti che hanno voglia di prestarsi a questa cosa e scaricando un plugin per i due maggiori browser che sono Firefox e Chrome, non per fare pubblicità, ma perché il plugin c'è solo per questi due sostanzialmente, vi permette di darvi disponibili per fare sostanzialmente da proxy per un bridge, cioè un'entità che il Tor Project utilizza per far accedere chi non può accedere direttamente alla rete Tor perché appunto tutti gli entry point della rete Tor sono magari bannati nella particolare rete in cui è costretto a stare insomma, il soggetto sfigato di cui stiamo parlando, cioè il poraccio che non può accedere a Tor. Ecco, di solito viene fornito a queste persone un entry point chiamato bridge. Questo bridge non è, diciamo, pubblico, altrimenti Zack sarebbe subito sgamato. Un modo per raggiungere questo bridge, qualora fosse anche difficile in questo modo arrivarci, è appunto questo, di usare questo Snowflake, scusate, che sostanzialmente vi permette, se voi siete dei fortunati che state su un internet un po' meno censurata e navigate con un browser normale, quindi non un Tor browser, perché altrimenti siete già dentro la rete Tor e allora non potete aiutare i poveracci che stanno fuori, però se tenete aperto anche un altro browser che sta fuori dalla rete Tor, potete contattare un servizio chiamato Broker al quale installando questo plugin sostanzialmente dite io ci starei a fare un pochino da proxy per questa cosa. Quando poi il computer del poraccio va a contattare il broker fornirà il vostro indirizzo in modo che voi possiate aprire una sessione con questo WebRTC, questo protocollo che si usa per fare le videochat, con la parte che volete aiutare, e attraverso questo tunnel mascherato da videochat, in realtà vi dirigete poi dopo verso un bridge di quelli che sono diciamo affacciati alla rete Tor. E quindi con questo complesso escamotage, ma pur sempre abbastanza interessante, abbiamo felicemente concluso questo breve report delle attività di FDU passate, nel senso che ho selezionato solo un argomento dei più sugosi. Poi in realtà Gus, che era questo personaggio, ci ha parlato di un sacco di cose, però ancora non è il caso di relazionarle tutte, anche perché se poi non siete venuti io non ve le racconto, così la prossima volta imparate e venite. Questa era solo una chicca. Detto questo Snowflake comunque sembra ancora non funzionare, ancora racconta tutte queste cose, ma poi non penso che funzioni. Io l'ho provato, ma non ha funzionato come credevo, eppure anche dentro il Tor browser mi sa che lo dovete, se lo volete provare ad usare, dovete stare tipo nella versione alfa, che però sconsigliano di scaricare perché è troppo nuova, e quindi alla fine io vi ho raccontato una roba, ma poi non la potete provare. Però questa è una caratteristica di Coccolì al silicio, la sua futilità, ma anche la sua capacità di avanguardia, di guardare oltre in Vabbè, avanti. situazionismo puro. Mi fa un baffo a me il situazionismo, quei vecchi. E allora adesso vi lascio con un altro po' di musica. Anzi, no, mi sono dimenticato di dirvi il futuro. Il futuro mercoledì prossimo c'è la nuova puntata, la terza o la quarta, non mi ricordo più, del corso di reversing. E parleremo di formati di file. Brrr, che Ehi, emozione! wow. E in particolare del formato ELF. E questo, che cosa me ne frega? Niente. Il formato ELF è quello dei file binari di Linux. Basta. Ma in realtà sarà molto interessante se avete voglia di venire. Se no, pazienza. Fate la fine poi di quella cosa del Tor Project. Cioè che non siete venuti e poi io non ve la racconto più. Ecco. E conclusa la parte dell'attività di IF2, iniziamo la puntata vera e propria. In realtà ho una sola notizia di cui vi narrerò prima di passare al nostro ospite, che poi non lascerò più andare via e diventerà di fatto il mio collaboratore perenne, perché sono stufo di stare da solo in realtà. E, comunque volevo parlarvi. Questa gliel'ho buttata lì perché non può rifiutarsi ora che è in diretta, Infatti capite? stavo tacendo. Ma l'hanno sentita tutti, sì, però. sì, sì, sì. Tutto vero. E, volevo parlare di Delegated Credential. Perché? Non lo so, perché l'ho trovato questa notizia, non sapevo neanche caso che cosa fosse, e ora invece lo so. Praticamente i grossi big, i colossi dell'internet, in particolare parliamo di Google, Amazon e Facebook, e forse anche qualcun altro, ma tanto saranno nomi minori, chi se ne frega, quelli grossi sono questi, hanno deciso di proporre una nuova estensione, uno standard da aggiungere ai vari protocolli TLS, che sono i protocolli che noi utilizziamo per far apparire la S di fronte, cioè al fondo di HTTP nel nostro browser. Sono quelli del lucchetto verde quando va tutto bene, insomma, sono quelli che rendono la connessione cifrata in quel del web, e poi in realtà si usa in molte altre situazioni, però in particolari, diciamo, per spiegarvi che cos'è in maniera semplice, possiamo fare riferimento a questa roba che tutti avete esperienza di utilizzo, con magari inconsapevole, ma tutti i giorni. Ebbene, codesto protocollo soffre in realtà di un problema, nel senso che è facile avere i certificati se c'hai i soldi, e anche se non ce li hai ormai, perché puoi ad esempio affidarti a Let's Encrypt, che è una associazione che fa questo e dà via certificati. Però se sei un'azienda e ti piace spendere, sostanzialmente te spendi e ti compri il certificato da qualche certification authority, cioè una specie di notaio che dice questo certificato lo firmo io e quindi è valido. Queste certification authority sono in realtà inserite dentro i vostri browser per verificare l'autenticità della connessione, che non vi possano ingannare. Il problema qual è? E metti che io il certificato lo perdo, me lo rubano. Oppure riesco a fare un certificato presso una certification authority vero, ma per un sito che non sono io, è capitato. Nel senso, riesco a bucare una certification authority e mi fo i certificati da solo. È successo davvero. E ora il problema qual è? Che ora che l'azienda si accorge che questa cosa è successa, nel momento in cui fa il certificato di revoca, che è il modo corretto per diciamo, revocare un certificato, dire non è più valido, ora dovete usare quello nuovo. Se vi arriva una connessione con quello vecchio, non chiudete, diciamo, quello che viene chiamato l'handshake TLS, ma non contrattate, diciamo, una sessione sicura con questo, per questa connessione, perché non è giusto farlo, perché quel certificato non è più valido. Ebbene, siccome il sistema di revoca è un po' farraginoso, nel senso che teoricamente i browser dovrebbero in automatico controllare continuamente quali sono i certificati validi e quali sono stati revocati, no? Però questa è una roba che in realtà è scomodo, perché la maggior parte delle volte il certificato non viene revocato, e quindi è un'attività che consumerebbe banda e risorse, però in realtà non porterebbe a un grosso risultato, se non quello di far andare il tuo browser più piano. Allora, siccome l'esperienza dell'utente è importantissima, e quindi loro sostanzialmente usano una sorta di cache. Questo però lascia un margine, cioè se io ho il certificato, l'ho rubato, ora prima che i browser aggiornino la loro cache, quanto tempo passa? Può passarne un po', e quindi io lo posso usare, c'è cioè una finestra temporale dove il mio attacco potrebbe andare a buon fine. Allora i big si sono messi d'accordo e hanno detto: no, noi vogliamo proporre un'estensione che chiamiamo Delegated Credential for TLS. E l'hanno proprio sottoposta come si fa per gli standard internet, quindi al comitato, che poi bla bla bla bla bla bla. Insomma, questa roba qua

E rieccoci qua per la parte seria della puntata. E allora abbiamo detto che parliamo di brevetti. Sì, ci proviamo. Allora, proviamo a fare questa panoramica un po' del sistema brevetti, in particolare del sistema brevetti negli Stati Uniti nell'Ottocento, come sicuramente come un momento molto, credo, significativo e da un certo punto di vista simile a quello che stiamo vivendo adesso. Dall'altro, comunque, sia come un momento centrale nella creazione della superpotenza degli Stati Uniti e del suo simpaticissimo sistema capitalistico associato. Allora, il sistema brevetti arriva negli Stati Uniti verso la fine del Settecento, come le patent law arrivano praticamente come forma di affrancamento dal colonialismo inglese, cioè era un modo per dire: ehi, questa è roba nostra, non ci rompete le scatole. Inizialmente c'era una differenza sostanziale in quella che era una forma remota di copyright, diritto, boh, insomma, brevetto, patenti, come vi pare, in Inghilterra, in cui praticamente era tutto del re, cioè si faceva un pat-pat sulla schiena dell'inventore, però poi era del re fondamentalmente. Gli americani si differenziano subito e cercano di dire invece: no, noi invece vogliamo premiare il singolo, cioè l'individuo e non comunque sia l'imprenditore o comunque sia un ente più grande, ecco, dell'individuo. Però era troppo facile, non ce l'avevano il re. Tra l'altro, ottima osservazione. Comunque sia, questo perbenismo dura tipo il cosiddetto bercio di un gatto, e dopo pochissimo, cioè già dai primi dell'Ottocento, negli Stati Uniti, il sistema brevetti inizia a diventare un meccanismo incessante di creazione di monopolio e di frivolezza. Tant'è che inizialmente si pretendeva che ciò che veniva registrato avesse le caratteristiche di innovazione e utilità, e queste due cose dovevano entrambe essere provate. Tempo tipo 3 anni, e levarono questa condizione e aprirono e resero le maglie, insomma, delle registrazioni di queste patenti estremamente larghe, e quindi ci fu un incremento enorme di queste patenti. Il sistema brevetti però ebbe un picco enorme subito dopo la guerra civile americana, nella seconda metà dell'Ottocento, in particolare con le telecomunicazioni, con tutto ciò che riguardava l'elettromagnetismo, il telefono e tutte queste robe qua, che spesso, cioè la parte storica di quel di tu, di, proprio storica e scientifica di quel periodo viene ampiamente fraintesa di questi tempi, diciamo, secondo me. In particolare, per dare un paio di numeri, cioè nei soli Stati Uniti, tipo tra 1860 e 1880, vengono prodotti tipo 800.000 patenti. Per quantificare un pochino meglio, rappresento un numero che era tipo 5 volte maggiore a quello dei secondi, cioè gli inglesi. E c'è da considerare anche che la terza superpotenza di quel periodo, cioè i tedeschi fondamentalmente, erano fortemente contrari invece al sistema brevetti, quindi non ce l'avevano e quindi non erano concorrenti in questa gara chi aveva più patenti. Difatti, in un certo senso, il sistema brevetti arriva in Europa come sconfitta dell'egemonia culturale americana, cioè il sistema brevetti negli Stati Uniti ci ha fregato tutti gli scienziati, tutti gli inventori, ha prodotto così tanti soldi che noi europei ci dobbiamo adeguare. Questo è un po' quello che è successo a livello di storia. In ogni caso, negli Stati Uniti questo sistema delle patent law venne fortissimamente consolidato dal potere legislativo. Cioè, come i box, io me li immagino come i boxer con Don Brown, capito? Come cazzo si chiama, il tipo che vestito strano che fuori dal ring gase diventa più famoso del pugile perché in verità è il cervello. Ecco, c'è un qualcosa di simile con gli avvocati di questi inventori dell'Ottocento, cioè tale B. Champ, B-E-E-C-H-A-U-M-P, non so bene quale sia la pronuncia, era l'avvocato di Bell, cioè l'autore di quella che si sostiene essere forse la patente più celebre, quella del telefono, e da cui poi cioè quella che ha ottenuto più ricavi e che ha avuto comunque sia un eco nelle invenzioni successive enormi. E quest'uomo era diventato estremamente ricco, tanto è diventato molto più ricco di Bell, e Bell sul letto di morte si dice che lo maledisse, tipo che gli aveva fregato tutti, aveva fregato il suo lavoro intellettuale e cose e via dicendo. Di storie simili come i manager con le star hip hop. Sì, esatto, perché ho visto là una serie TV l'altro giorno, sì. E c'è proprio questa cosa. Ma io sì, esatto, eravamo, e queste erano le analogie col moderno a cui mi riferivo. Forse. No, scherzo. No, quindi non è mai cambiato niente in realtà. No, esatto, siamo fermi al Calesse. Siamo fondamentalmente lì. E una delle figure ovviamente più note di questi tempi, di quel periodo, è sicuramente Nikola Tesla, e in generale le due sue battaglie presunte battaglie principali. La prima invece, quella vera, vinta, ma poi vinta a livello, diciamo, commerciale, nemmeno tecnologico, sicuramente non scientifico, contro Edison, sulla corrente alternata, in cui, vabbè, quello, sti cazzi, ha vinto lui. Sulla seconda parte, cioè quella della radio, che tantissimi sostengono che Tesla abbia detto, in verità Tesla non ha fatto assolutamente niente, cioè non esiste prova di una trasmissione, cioè di un oggetto che effettivamente fosse in grado di trasmettere e ricevere efficacemente pulsi radio, figuriamoci onde effettivamente come quelle che sta trasmettendo Radio Wombat. E non grazie a Tesla, ecco. No, sicuramente, no. Sicuramente, no. Sicuramente non grazie a Tesla, anzi, cioè, in un certo senso Tesla rappresenta una figura catartica, non so come dirlo, proprio super caratterizzante quel periodo, perché rappresenta la creazione dello spaccone americano, cioè l'Elon Musk dell'Ottocento, quello che magari, cioè, può avere una qualsiasi capacità tecnica, ma anche scientifica o sti cazzi, non lo so, però racconta un sacco di fregnacce, cioè di continuo, e usa questa spettacolarizzazione continua delle sue fregnacce tecnologiche come momento di affermazione, e fondamentalmente un'affermazione che è un'affermazione di tipo monopolistico, capitalistico, cioè che si... Steve Jobs. Sì, esatto, sì, sì, esatto. Mi viene più in mente quello di Tesla proprio, appunto, più che Steve Jobs, però in ogni caso l'approccio è quello là. Ehi, vuoi sapere che cos'è questa mela? Può diventare quello che vuoi. Cioè, la creazione della necessità come motore del consumo, questo rappresenta Tesla, e Tesla in particolare rappresenta quello che è forse il primo ingegnere novecentesco, cioè in quella concezione di rapporto intimo, no, con la produzione più che con la necessità. Cioè, per capirsi invece, ora per ricontestualizzare un attimo, in tutto l'Ottocento, ad esempio, quasi tutti gli stati europei, ma non la parte governante, cioè la parte magari anche più intellettuale, era estremamente contro il sistema brevetti, e lo era fondamentalmente cioè seguendo i principi libertari, cioè non è che non abbiamo inventato niente, ecco, insomma, e si intravedeva già al tempo il rischio monopolistico, ma anche il furto intellettuale, proprio perché comunque sia di tutti i personaggi coinvolti nelle più grandi patenti, cioè ci sono regolarmente storie di furto intellettuale, cioè lo stesso Bell aveva rubato un'altra. Tesla sosteneva di aver fatto cose che... Tesla, ma poi era tipo piccoso, cioè una volta sostenne... Forse è la prima volta che cioè la creazione dello stereotipo di questa frase, però lui disse che non era vero che Marconi era stato il primo a mandare il primo pulso radio, lui 2 anni prima aveva sentito un pulso tipo da Marte, cioè sosteneva questa roba qua. Sì, però capito, non lo sto dicendo per una cosa, proprio disse effettivamente che lui sentiva gente da Marte. Oppure che aveva creato questi raggi gamma mortali che erano in grado di ammazzare tipo... Ma questo è vero però. No, non è vero. Come non è vero? Non è vero niente. Ma neanche questo. No. Ma gli dava un'area un po' gotica, un po'... Ma sti cazzi, no? Queste cose da titano. Ma appunto, ma scusami, tutta quella fascinazione che se ci pensi molta gente, anche... apparentemente normale, prova per Steve Jobs, per tutti questi innovatori. No, questi... lui non ha mai inventato i raggi Tesla, quelli manco Tesla. Come no? No, in verità no, cioè lui sosteneva che avesse fatto questa cosa che poteva uccidere eserciti, che tra l'altro, provò a essere sfruttata dall'Unione Sovietica questa cosa, dicendo che invitarono, cioè ci sono delle storie strane in cui non si capisce se effettivamente ci provarono, se veramente semplicemente una paranoia collettiva, insomma, però davvero sì. Io me lo immaginavo tipo con Mazinga, cioè raggi. No. Invece, visto che appunto l'ultimo mercoledì nel nostro ritrovo settimanale IFDU, parlandone con gli altri nostri colleghi e colleghe, dicevamo che invece il buon Marconi è che, buon. Che sì, perché su di lui possiamo parlare male. Ma sicuramente, di brutto. Noi di tutti di possiamo parlare male. Però era l'unico, almeno, che aveva il buon senso di ringraziare l'unico che effettivamente ci aveva capito qualcosa di ste cazzo di onde elettromagnetiche, che era Maxwell. Fino a lì. Era quello che andava al giro dicendo, sì, io lo applico, però devo ringraziare Maxwell, devo ringraziare Hertz, questi fisici ottocenteschi, che comunque si avevano fatto... Tesla niente. No, Tesla proprio faceva... L'ho fatto tutto io. Tesla faceva tutto lo spaccone, sì, ah, sì, okay. Sì. E direi, vabbè, potrei anche... sicuramente mi sono dimenticato cose, ma magari le diremo nelle prossime puntate. E se no, se parli tutto adesso, cioè non vieni più ospite, no, sai che questa cosa non è possibile. Ragione. Oddio, forse la devo parlare molto velocemente. No, vabbè, dai, concludiamo dicendo un paio di aneddoti buffi. Tesla... Tesla era molto amico di Mark Twain. Mark Twain era una persona molto simpatica, ma fondamentalmente pessima. Era razzista, fondamentalmente un capitalista. Cioè era un altro che da povero quale era convinto che l'emancipazione arrivasse dal successo economico personale, fondamentalmente. Quindi poco cambia da un altro estremamente ricco. Come le star dell'hip hop. Sì, sì, esatto. Ormai è tutto un filone di hip hop, sì. E praticamente anche Twain, ovviamente famoso come scrittore, però in verità Twain, come da buon coglione qual era, sputtanò tantissimi soldi nei tentativi di brevettare cose. In particolare, per capire il tenore, provò a brevettare tipo una decina di bretelle, di fiocchi, di bottoni, di cose strane del genere. Cioè, questo era, diciamo, lo scenario americano fino all'800. C'erano quelli che inventavano le cose incredibili, appunto, magari... però c'erano anche quelli che inventavano le bretelle e questi scemi che brevettavano le bretelle erano estremamente funzionali a tutto quel sistema e Mark Twain ne fu parte, però forse la cosa più bella è legata alla comunicazione, è che Mark Twain andò in bancarotta nel tentativo invece di brevettare qualcosa di un pochino più serio, cioè una macchina per stampare in serie, per provare a fare da vendere a giornali, perché lui era un corrispondente per molti giornali. E niente, praticamente fallì miseramente in questo tentativo di costruire questa macchina per stampare in serie, che era proprio come nelle puntate dei Simpson, doveva essere enorme, però fallì miseramente e quindi fu costretto a girare il mondo, questa merdicciola, girò il mondo passando anche per l'Italia sostenendo che qua si mangiava male, diceva queste cose, sì. Infatti era un coglione, te l'ho detto. Vabbè, basta. Sei parlato tanto e ci sgrideranno che non abbiamo messo la musica. Vai, mettila. Ora la metto. Ciao. Ciao. Of man, I work my way backwards using cynicism.